Europa 24. Le trattative sul debito greco in primo piano, l'avete sentito anche poco fa in effetto giorno, dopo l'ultimatum lanciato ad Atene, l'Europa ha ribadito poco fa le sue posizioni. L'Eurogruppo ha comunicato con chiarezza alla Grecia che il programma deve essere esteso con le condizionalità connesse, rispettando gli impegni. Solo dopo c'è la flessibilità per discuterle, ha detto il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis. Prima dobbiamo vedere su carta cosa i greci chiedono, ha aggiunto. Questa mattina il portavoce del governo Tsipras ha spiegato che oggi il ministro delle finanze Varoufakis invierà all'Eurogruppo la richiesta per l'estensione del prestito europeo, non probabilmente dell'intero accordo di salvataggio. La crisi libica sarà oggi al centro del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Oggi inoltre è prevista una nuova conference call fra Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande, i quattro leader del formato Normandia, che hanno negoziato i recenti accordi di Minsk per porre fine al conflitto nel Donbass. Crisi libica che sta avendo forti ripercussioni sull'ondata migratoria verso l'Europa ed in particolare verso l'Italia. Per affrontarla, dice la Camera il ministro degli esteri Gentiloni, bisogna rafforzare l'azione europea di Triton. Sentiamo il ministro Gentiloni. Di fronte alla crescita dell'onda migratoria, una cosa è certa: non possiamo voltarci dall'altra parte, lasciando i migranti al loro destino. Non possiamo farlo, non sarebbe degno dell'umanità e della civiltà che hanno fatto grande l'Italia. Dobbiamo piuttosto batterci per contrastare le cause delle migrazioni nei paesi di origine e di transito. E dobbiamo rafforzare sensibilmente Triton per adeguarla alla realtà di un fenomeno di scala enorme. A questo proposito ho inviato 2 o 3 giorni fa una lettera all'alto rappresentante dell'Unione Europea Mogherini, al vicepresidente Timmermans e ai 6 altri commissari della Commissione Juncker, una lettera in cui ho chiesto a nome del governo italiano che l'Unione Europea faccia molto di più in termini di risorse finanziarie e di disponibilità di mezzi aeronavali. L'Europa è una superpotenza economica e una superpotenza economica come l'Unione Europea può andare oltre i 50 milioni l'anno che oggi vengono spesi per fronteggiare una simile emergenza. Sul fronte ucraino, come dicevamo, oggi nuova conference call fra Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande. Intanto questa mattina le parole dell'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini. Le azioni dei separatisti sostenuti dai russi a Debaltseve sono una chiara violazione del cessate il fuoco e i separatisti devono fermare tutte le attività militari, ha detto la Mogherini, aggiungendo che la Russia e i separatisti devono immediatamente e pienamente attuare gli impegni di Minsk. La Mogherini ha fatto sapere inoltre che l'Unione Europea resta pronta a prendere misure appropriate nel caso in cui continuino i combattimenti e altri sviluppi negativi in violazione degli accordi di Minsk. L'Unione Europea chiede poi l'accesso immediato per la missione di monitoraggio OSCE e un passaggio sicuro per tutti coloro che devono lasciare l'area. L'Italia si assottiglia, il 42% delle nostre coste è soggetto a fenomeni di erosione, colpa anche dei cambiamenti climatici che non siamo pronti a fronteggiare. L'unica città italiana ad aver approntato un piano di adattamento è Ancona, che lo ha fatto col finanziamento del progetto europeo Life Plus, elaborato con la città greca di Patrasso e quella spagnola di Bullas, sotto la supervisione scientifica dell'ISPRA. Marco Cardinaletti ne è il capo progetto, sentiamolo al microfono di Laura Bettini. L'idea era quella proprio di costruire una strategia integrata sul cambiamento climatico per tutto quello che erano poi i settori di alta vulnerabilità e quindi ad alto rischio in alcuni casi che era per Ancona. Ricordo che era stato anche chiesto ad alcuni esercizi commerciali di cominciare a pensare di spostarsi verso l'interno. Nel piano di adattamento è stato attivato un tavolo di lavoro legato alla riqualificazione dell'area di Porto Novo. Il discorso è che poi l'atto pratico è abbastanza complesso. Quindi per ora nessuno si è spostato, ecco, diciamo, ci sono allora, gli altri interventi. Attenzione, non sono state fatte azioni di contorno, sono stati fatti scavi per quasi 400.000 euro e tutto il lavoro di efficientamento energetico nell'illuminazione pubblica è costato circa 600.000 euro. Anche per quello che riguarda per esempio tutta la bonifica del laghetto, per migliorare quello che è appunto l'aspetto, diciamo, di valorizzazione della biodiversità, che è un altro tema fondamentale. È tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.